rumori, parole, cose, persone. Rumori, parole, cose, persone. Sì, insomma, non versi in mente. Volevo telefonarti quel giorno che ti vedi in mezzo alla gente. Dirti che sei libera e non per niente. Per non ferirti, non vederti, non dannarti più questi ti passi. Vorrei sparire e nuvola nera, solitudine la sera apparire. Distruttive medicine, ricostruiscimi visioni oniriche. Rivivi, preludi vivi, armi, ossioni del sole che sei te ad illuminarmi. Vorrei sparire e nuvola nera, solitudine la sera apparire. Rumori, parole, cose, persone. Rumori, parole, cose, persone. Visione. Vorrei sparire e in una nera solitudine alla sera apparire. Distruttive medicine, ricostruiamoci visioni uniriche. Vivi, preludi vivi di armi, ossioni del sole che sente ad illuminarmi. Nella sera illumini, accettami, vivimi, lievitami, rubami, rubarti luna per solo baciarti. Sfuma i miei dolori per trasformarli in profumi. Brucia la stanza, benzina, nel tuo solo ricordo basta e avanza. Benzo di azepina, curami, credimi in testa. Quelle di un cuore che strazia, malizia ed intenti, nuotando lontani lamenti. Rivivi. Insomma, non versi in mente. Volevo telefonarti quel giorno che ti vedi in mezzo alla gente. Dirti che sei libera e non per niente. Per non ferirti e riaverti, no. Solo qualcosa che la mia mente decorò si sbriciola. Il ricordo di noi, nella sera nell'umina, mi accetta, mi ridi, mi lievita, mi ruba. Rubarti luna per solo baciarti. Sfumi d'ore per trasformarli in fumi.